Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di consapevolezza, impariamo a volerci bene su Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e vi ho portato nel meraviglioso mondo dei fiori di pace e oggi nelle prossime puntate vorrei portarvi in un altro meraviglioso mondo, fatti di esseri viventi e un po' diversi, i cristalli. Ma prima di entrare nel vivo della puntata vi vorrei leggere un estratto di un libro di Hermann Hesse. La felicità? Disse il bell'uccello e rise con il becco dorato. La felicità, amico, ovunque, sui monti e nelle valli, nei fiori e nei cristalli. Cosa sono i cristalli? I cristalli sono degli esseri viventi, non come nella forma in cui noi pensiamo gli esseri viventi, però hanno una vita propria. Hanno accompagnato l'uomo fino dall'antichità, dagli Egizi, ai Maya, agli Indiani d'America. Tutte queste civiltà evolute hanno usato pietre e cristalli sia come portafortuna che come terapie fisiche e per aiutare la persona. I cristalli non si sono manifestati all'uomo in epoche diverse, quindi decidono loro quando apparire, quando l'uomo magari è in grado di comprenderne e capire la loro funzione su questa terra. I cristalli hanno diverse funzioni, canalizzano l'energia, quindi possono essere usati per aiutare terapie con Reiki o dei rimedi vibrazionali come i fiori di Bach. Aiutano a proteggere, a purificare l'ambiente o gli oggetti e aiutano anche a avere una visione del futuro, a capire il nostro ruolo su questo mondo e a lavorare quindi su noi stessi e su una maggiore consapevolezza di noi su questa terra. I cristalli, diciamo che noi li acquistiamo, ma in realtà sono loro che scelgono noi. Quindi quando vi approcciate a questo mondo, verrete attratti da un cristallo e sarà lui che in realtà vi ha scelto. Vi ha scelto e vi accompagnerà per un periodo di tempo che sarà lui a decidere. La prima cosa da fare quando si è acquistato un cristallo, indipendentemente dal colore, dal motivo per cui si è comprato, anche solo perché ci piaceva il colore, perché eravamo attratti, è purificarlo. Purificarlo perché ha viaggiato, perché è stato in altre mani, perché può aver assorbito energie che non vi appartengono. Come si fa per purificare un cristallo? Va messo su una brusa d'ametista, quindi quel pezzo di ametista che è così bello da vedersi e che di per sé purifica l'ambiente e purifica gli oggetti. Oppure vanno messe sotto sale, sotto acqua e sale, oppure si può usare per una purificazione immediata il Pomander 1 dell'Aura Soma, che è uno spray che trovate online o nel polisteria. Per quanto riguarda invece la purificazione sotto sale, acqua e sale o su una drusa, ricordatevi quello che vi sto per dire, vanno purificate per 24 ore, 3 giorni, 7 giorni o 9 giorni. Questo significa che se posate una pietra su la drusa alle 9 di una sera, lo dovete togliere esattamente alle 9 del giorno dopo, 5 minuti più prima o 5 minuti dopo. Se superate quel tempo dovrete andare 3 giorni, oppure poi 7, poi 9. Le pietre una volta usate vanno sempre purificate, quindi se per un periodo portate una pietra addosso e ne avete bisogno di portarla tutti i giorni, potete purificarla velocemente o sotto l'acqua corrente usando il Pomander 1, però per lunghi periodi, quando comunque ha fatto il suo lavoro, è bene fargli fare almeno 24 ore di purificazione completa con un metodo che vi ho appena detto. Alcune pietre, e poi ve ne dirò quando ve ne parlerò specificamente, non vanno messe sotto sale, sotto acqua e sale, perché si rovinano. Durante un lavoro con le pietre potrebbe capitare che vi si rompano. Se vi si rompono vuol dire che ha fatto il loro corso, che hanno assorbito delle energie che vi hanno protetto. In questo caso vanno ridate alla terra. Per ridonare alla terra o le mettete dentro un vaso, o le portate in un giardino, o le buttate in un ruscello o in un corso d'acqua. Stessa cosa per il sale che usate per la purificazione. Una volta usato va gettato, però gettatelo ridonandolo alla terra, quindi portatelo in un giardino, mettetelo in un vaso, portatelo in un ruscello. La sera, quando vi togliete la pietra, se il giorno dopo ve la dovete mettere, mi raccomando, almeno un lavaggio veloce sotto l'acqua corrente o con il pomander 1, fatelo sempre fare, lasciatela riposare e il giorno dopo la prendete. Parliamo adesso del colore delle pietre in base ai vari chakra. Quindi, primo chakra va dalla punta dei piedi fino al pube, pietre di colore rosso, nere o grigio, come le matite. Secondo chakra, dal pube sotto l'ombelico, pietre di colore arancio o perlate, o color pietra di luna, o la selenite vanno bene su questa pietra, su questo chakra. Terzo chakra, quindi da sopra l'ombelico al plesso solare, bocca dello stomaco, pietre di colore giallo. Quarto chakra, chakra del cuore, pietre di colore verde e rosa, tutte e due vanno messe su questo chakra. Poi vi spiegherò nelle prossime puntate perché sul chakra del cuore vanno due pietre di colore diverso. Quinto chakra, chakra della gola, pietre azzurre, blu e celeste. Sesto chakra, terzo occhio, quindi fronte, pietre di colore viola. Settimo chakra, sopra la testa, la corona, cristalli trasparenti. Una pulizia e un riequilibrio dei chakra fatto con le pietre prevede quindi che per ogni chakra venga messa una pietra in base alle sue funzionalità, che sarà il cristallo terapeuta, dopo una consulenza fatta con voi, dal primo al settimo chakra. È possibile anche fare un lavoro con solo cristalli di rocca, quindi pietre trasparenti, messe su tutti i chakra, e queste servono per purificare la persona, quindi lavoreranno proprio per togliere tutto quello che c'è. Così come è possibile ampliare il lavoro dell'equilibrio dei chakra fatto con le pietre per ogni colore, aggiungendo allo stesso chakra un cristallo di rocca, amplierà ancora di più il lavoro dei cristalli. Altra cosa che si può fare sempre è una ruota fatta di cristalli di rocca, quindi sempre pietre trasparenti, all'interno del quale si sdraia la persona, e ogni pietra viene messa sui punti cardinali della direzione, quindi sud, est, ovest e nord, e poi le sottodirezioni, quindi sud-est, sud-ovest, nord-est e nord-ovest. La persona all'interno di questa ruota avrà il beneficio dei cristalli di rocca, e il cristallo terapeuta, se lo ritiene necessario, in base a quello che sente, può aggiungere sui vari chakra una pietra del colore che vi ho detto. Inoltre si può aiutare le pietre a lavorare meglio e ampliare il loro potere toccandole con una punta o laser di cristallo di rocca, quindi quelle punte che trovate nei negozi, quei pezzi proprio di cristallo di rocca fatti a punta. Per oggi mi pare di avervi dato una bellissima infarinatura di che cos'è la cristalloterapia, di come si usa e come lavora. Nelle prossime puntate vi spiegherò per bene i vari chakra e a che cosa servono mettere le pietre lì, su che cosa lavorano. Quindi, prima di concludere, vi vorrei dare una definizione di un cristallo. E per voi oggi ho scelto l'angelite. L'energia gentile di questa pietra aiuta a far tornare alla purezza e all'innocenza dei bambini, disperdendo paure e irritazioni, allevia lo stress emotivo dato dal continuo immaginare su dei fissi e sterili, per portare invece calma, serenità e armonia. È consigliabile indossarla sotto forma di ciondolo o collana e tenere all'altezza della gola. Posta sotto il cuscino, stimola un sonno ristoratore. Prima di salutarci, come sempre, vi lascio i nostri riferimenti. Il nostro sito è www.energica-mente.it. La nostra email info@energica-mente.it, la nostra pagina Facebook Energicamente, i nostri numeri di telefono: Francesca 340-2345-340, Franco 329-8989-669, io Elisa 339-38-60123. Nell'augurarvi un buon fine settimana, sperando che vi possiate riposare in questa calore estiva, Vi auguro tutto il meglio e ci sentiamo la prossima settimana. Un abbraccio.